Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Diego Della Valle, 60 anni, marchigiano, sposato con due figli, presidente, amministratore delegato della Toz, patron della Fiorentina Calcio, azionista di Itolo, i treni privati italiani, secondo azionista di RCS, il gruppo che controlla anche il Corriere della Sera, il primo è John Elkann, col quale è il momento degli schiaffoni, e di Elkann lui dice bisogna fare un referendum per chiedere se lo vogliono ancora in Italia, è l'anticonformista numero uno del capitalismo italiano, solo ma determinato, adesso forse ha un nuovo compagno di strada, Matteo Renzi. Ecco, dottor Della Valle, Matteo Renzi prima di fare il governo ha rimesso in campo Berlusconi con l'accordo sulle riforme, ha fatto bene? Beh, se servirà a fare le riforme sicuramente sì, quindi l'obiettivo è quello di fare le riforme per cambiare il paese. Senta, se quella è la strada, senza compromessi. Senta, Berlusconi però sembra l'azionista occulto del governo Renzi, è possibile? No, direi di no. Oggi voglio dire, c'è proprio la svolta è, lo dico anch'io, lei ha detto poco fa che ho 60 anni, è anche generazionale, no? Vedere tutti questi trentenni, 35 anni. Fa bene al cuore. Fa bene al cuore e lasciamoli lavorare. Senta, intanto Giuliano Ferrara ha detto è un governo perfetto, esagera un po'? No? È un governo nuovo, sicuro, se sarà perfetto lo vedremo entro poco. Come dice Renzi, qualche mese. Senta, per lei quindi è il governo di un barbaro rivoluzionario, non un Letta bis? No, è tutta un'altra cosa, secondo me. Io di Letta ho sempre detto che uno che è all'estero non ci faceva vergognare, lo riconfermo, ma questa è proprio un'altra cosa, è un altro DNA, c'è gente che non è apparentata nel senso politico con un vecchio mondo che è quello che ha massacrato un po' il paese, quindi io direi vediamoli lavorare, sì. Questa forse è la prima volta che abbiamo gente che se ne avrà le capacità a cambiare il paese. Senta, comunque 3 ore di colloquio col presidente Napolitano al Quirinale sono il segno di uno scontro fortissimo. Scontro? Beh, questo non lo so, non stavo lì, però io ho l'impressione di no, se non altro di condivisione di come fare le cose. Una lunga discussione per trovare l'accordo. Non credo scontro. Senta, all'economia c'è Padoan, che è estraneo al giro di Renzi, e ha sempre sostenuto la necessità di una tassa patrimoniale. Si comincia bene se si comincia così oppure no? Senta, se l'idea è di chiedere uno sforzo a chi ha di più per aiutare chi ha di meno, a patto che lo sforzo vada veramente alle persone che hanno di meno, sono d'accordo. Senta, ma cosa si deve fare per far ripartire subito l'economia? Lei ha detto i mezzi sono pochi, e allora subito cosa bisogna fare? Beh, la parola subito, che l'economia riparta subito, probabilmente forse non è così, ma quali possono essere le cose? Gli strumenti per... Gli strumenti sono intanto dei grandi segnali da dare subito, no? Un grande progetto per la ripartenza del paese, secondo me parte dal turismo, che il nostro paese può vendere al mondo intero il prodotto. Vendere l'Italia turismo. Più che il Made in Italy. Beh, vendere lo stile di vita italiano a gente che ama l'Italia, che qua vuole venire, dobbiamo farceli venire e fare grandi cose. E quindi partire di lì. Il turismo non è avere il chiosco al mare, il turismo è rifare gli aeroporti, rifare le strade, altre società che trasportano i passeggeri sulle ferrovie, cioè è tutta un'operazione di grandissimi investimenti che possono essere fatti perché molti investitori internazionali importanti su questo argomento sarebbero pronti a venire. Ecco, ma in Europa che strumenti ha Renzi per far valere contro gli euroburocrati le ragioni dell'Italia? Ma guardi, io credo che bisognerà spiegare veramente con chiarezza che a quelle regole il paese non riparte, quindi noi dobbiamo cambiarle, hanno ragione quando dicono che il nostro è un paese che non è stato attendibile, oggi secondo me bisogna dire abbiamo bisogno di fare queste cose, controllateci molto, però noi le dobbiamo fare. In Spagna il 3% l'hanno lasciato sfondare. Esattamente. Ah, ecco. Senta, lei conosce bene Renzi, che cosa le piace di più di lui? Ma noi siamo tifosi della Fiorentina, quindi è giovane, mette la faccia sulle cose, però è importante, mette la faccia sulle cose che fa e adesso vediamolo lavorare. Io direi facciamo così, al di là di conoscersi o meno, oggi governa, diamogli qualche mese di tempo per vedere la marcia e poi valutiamo. Senta, e di meno cosa le piace? Qualcosa che le piace di meno da subito? Ma di meno, devo dire, questo magari bisogna chiederlo alla moglie, ai parenti, ai figli, a chi ha più, diplomatico. Chi più attitudine di star con lui. Senta, ma dire a Letta, stai tranquillo, poi liquidarlo così era l'unica cosa da fare? Ma guardi, guardando dal di fuori, da cittadino che osserva, immagino che abbia percepito arrivando a Roma che non avrebbe toccato palla e quindi tanto vale per garantire a chi l'ha votato, sopra dalle primarie, certo, sto parlando delle primarie, di dire benissimo mi prendo un rischio in più, mi prendo un rischio in più, sì, lo faccio subito, sapendo che se poi sbaglio non mi perdonerà nessuno. Senta, dottor Della Valle, anche lei ha il suo match in corso con John Elkann. Al centro c'è il destino dell'RCS. Lei ha investito molto, ma conta poco. È perché in Italia le azioni ancora si pesano e non si contano? No, questo grazie a Dio è finito. Sono entrato in certi ambienti quando si pesavano e non si contavano. Oggi si contano assolutamente. Io non ho un match con gli altri, l'ho detto 50.000 volte a chiunque, anche perché generazionalmente siamo diversi, lo conosco fin da bambino. Io ho un match con quello che la famiglia Agnelli ha rappresentato nel paese e come è stata mal raccontato che la famiglia ha fatto questo paese. Ne parliamo, questo ha fatto dei guai e io credo che oggi sia il momento di raccontare. Ecco, ma lo scontro è sul ipotesi di fusione Corriere Stampa oppure più complessivo? Non ci sono scontri di questo tipo. Io sono un azionista di quel giornale oggi, dato che sicuramente è chiaro a tutti che quella non è un'operazione economicamente interessante. Non voglio che il giornale finisca in mano a persone che sono abituate a trattare la stampa come merce di scambio con il potere, quindi mi auguro anche che il nuovo potere non si faccia trattare in questo modo, però oggi l'obiettivo è la comunicazione è importante, tentiamo di tenerla libera e questo è quello che proveremo a fare. Senta, lei comunque è stato chiarissimo, sarà suo amico, fin da lo conosce da bambino, però ha detto è uno spettacoloso vacanziero, ha poca voglia di lavorare, le hanno attribuito frasi che non forse pensa. Non ho detto questo e forse l'ho detto più alla famiglia allargata. No? Ho detto che a lui gli ha detto che è un imbecille. Ecco. Quando ha trattato l'argomento occupazione dei ragazzi in quel modo, era la parola più elegante che mi è venuta in mente. Dire, ecco. Si poteva dire e lei cosa avrebbe detto ai giovani che Elkann non gli ha detto? Intanto prima di parlare ai giovani bisogna averne titolo, no? Bisogna aver fatto qualcosa nella vita, aver costruito delle cose, aver sofferto un po', conoscere quali sono i veri problemi delle famiglie, altrimenti si corre il rischio di fare la pessima figura che ha fatto lui. Ai giovani avrei detto è dura ridirvi di avere un po' di pazienza, però questa volta potrebbe essere la volta buona, diamoci dei tempi corti. E spero che quelli come me, che hanno delle responsabilità, voglio dire, nella vita sociale italiana, si impegnino moltissimo per fargli trovare un lavoro. Senta, però affidarsi a Marchione anima e corpo come ha fatto Jackie Elkann non è stata una cosa proprio imbecille. Se io non sono un fiatologo, nel senso io credo che gli Agnelli a Marchione devono fargli un monumento. A questo punto gli italiani no. Però considerando che Marchionne ha Agnelli le sue qualità, sì e Marchionne no. Agnelli sì, sì e gli italiani no. Gli italiani no. Dico Marchionne, dato che è una persona capace, secondo me deve solo per un attimo dedicarsi di più ai problemi che può avere l'Italia e con l'influenza che ha potrebbe fare ancora delle buone cose per il paese. Lei ha detto che è un furbetto cosmopolita, adesso però forse ha cambiato idea. No, guardi, io quando l'ho detto perché si stavano rimescolando male le carte e il loro slogan era si deve lasciare questo paese perché l'Italia non funziona. Quello è il modo peggiore di raccontare, e anche il falso, di raccontare l'Italia fuori dall'Italia, come possiamo pretendere che poi vengano ad investire qua se la prima azienda italiana se ne va. Mentre la verità era che stavano preparandosi per andarsene fuori dall'Italia. Quindi il furbetto cosmopolita oggi è perfetto. Perfetto. Perché cosmopolita vuol dire stare in Olanda, stare in Inghilterra e non stare altrove. Senta, gli Agnelli un po' l'ha detto, quindi nell'insieme hanno fatto più bene o più male all'Italia secondo lei? Beh, tirando le somme oggi molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro, assolutamente. Vede, bastava molto poco, no? Perché l'intuizione che ha avuto Marchionne di comprarsi la Chrysler, che poi è stata la somma di due debolezze, la verità è che è stata per la Fiat un'ancora di salvezza. Ma quello che poteva essere fatto diversamente è come questa cosa è stata raccontata, no? Perché lei percepisce che oggi la Fiat ha comprato la Chrysler, nell'immaginario non è così, perché si sposta tutto fuori da Torino. E la Chrysler che ha preso la Fiat. Fiat in qualche quindi, modo. Ma perché questo? Per due convenienze che, guarda caso, vanno sempre in tasca agli Agnelli. Olanda, perché la legislazione gli permette con poche azioni di comandare. Inghilterra, perché pagheranno meno tasse. Quindi secondo me, per il paese, bisognava dire: noi siamo di Torino, qui rimaniamo, benissimo fare questa fusione e cominciamo a fare anche qualche bella automobile, così magari le aziende lavorano. Senta, John Elkann però dice che lei è un nano del lusso, che in Italia perde il 30%, senza la Cina sarebbe già morto, 1-1 insomma. No, guardi, io nel nostro settore, dato che un'automobile costa molto più di un paio di scarpe, certo, se facciamo le debite proporzioni siamo lì. Il nostro è un gruppo, ma non lo posso dire io, che viene considerato eccellente, certo, uno dei migliori in Italia e nel mondo nel suo settore, un gruppo che fa del Made in Italy la sua bandiera, con prodotti eccellenti, utili molto alti e EBITDA tra i più alti del settore. Questi sono, vabbè, quindi senta, nano mica ma tanto, poi non si capisce, ma il mercato italiano, questi ragazzi spesso hanno dei problemi col vocabolario, anche, sì, avendo studiato poco in Italia, certo, parlano di più le altre lingue. Senta, ma il mercato italiano è davvero diventato così difficile? Il mercato italiano è difficile per chiunque, anche per chi vende una mozzarella, certo, oggi, certo, non ci sono, perché soldi, la condizione delle famiglie è veramente drammatica, e di questo noi dovremmo tenerne assolutamente conto. Senta, si dice però, lei ha detto le automobili della Fiat che dovrebbero farne qualcuna, però si dice che anche voi, come la Fiat, avete rinnovato poco i vostri modelli. No, è vero? Noi lo facciamo. Il nostro è un mestiere dove non è possibile fare diversamente, quindi non è stata neanche la nostra una scelta avveduta. Noi dobbiamo innovare tutte le stagioni, perché almeno ci sono due volte le sfide all'anno, altrimenti siamo fuori mercato. Ecco, appunto, a proposito, è appena finita la settimana della moda a Milano. Com'è andata? Direi bene. Segnali di ripresa o no? Direi bene sotto l'aspetto della considerazione dei compratori e della stampa estera nei confronti del paese, quindi quello che la Camera della Moda sta cominciando a fare un po' si vede, il fatto che alcuni protagonisti importanti del Made in Italy si siano impegnati funziona, e quindi direi positivo. E poi vedremo cosa succede anche nei conti. Senta, ho letto dell'importanza di suo padre nella sua formazione, che cosa le ha insegnato, che spera di non dimenticare mai? Mio padre, io per gioco ho costruito un piccolo motto di casa, non essendo noi notoriamente una famiglia di nobili, e le parole sono dignità, dovere e divertimento. Quello le ha insegnato. La terza l'ho aggiunta io, ma la dignità e il dovere è quello che mio padre ha insegnato tutti noi. Senta, lei dice che l'1% degli utili delle aziende va investito in progetti di solidarietà a sostegno del territorio. Lei dove lo fa? Noi lo facciamo dove abbiamo i nostri stabilimenti, e sarebbe interessante, ora vorremmo raccontarlo ai nostri amici, colleghi, quante cose si possono fare con quell'1% e quante persone si possono aiutare. Cioè lo fa nelle Marche? Noi lo facciamo nelle Marche e lo facciamo in Toscana, dove abbiamo le dove fabbriche. Avete? E le Marche sono importanti per lei? Io sono marchigiano, sono nato lì, vivo lì. Si sente marchigiano? Assolutamente sì. E cosa vuol dire essere marchigiano? Insomma, stare con i piedi per terra, spesso voglio dire, si fa un po' più fatica a fare le cose, che siamo un popolo di grande prudenza, però insomma. Però lei aggredisce il mercato. Qual è il suo peggior difetto, però? Dicono che sono un po' testardo, insomma. Mi sembra più una qualità che un difetto. Senta, lei è marchigiano, però ha comprato la Fiorentina. È passione o marketing? La Fiorentina, dopo io ero un interista con passioni fiorentine, mi piaceva molto, i miei idoli erano Corso e Amrin, tutti e due il calzone. Amrin era più Juventino, prima era Juventino, ricorda, ma insomma. Con il calzettone sceso. Esatto. Poi un giorno una persona che io conoscevo poco ma stimavo, che il sindaco di Firenze di allora, Leonardo Dominici, ha avuto un problema serio perché la squadra stava finendo. Ho chiamato io lui, dico: guardi che se vuole siamo pronti, e poi la squadra gliela ridiamo tra qualche mese. Invece se l'è tenuta, non è venuta così. Allora, il tifo ha prevalso. Senta, ma se non sbaglio, mio fratello, se non sbaglio, con Renzi sindaco avete parlato di uno stadio tipo Juventus Stadium, pensa che ci sarà? Noi non parliamo parliamo mai di tipo Juventus, abbiamo pensato di uno stadio tipo Fiorentina, di uno ma insomma quello tipo Fiorentina, però, se, l'intenzione di farlo, cioè, ci stiamo provando. Però senta, mi consenta che lo stadio della Juve è sicuramente un modello per il calcio italiano, ammette almeno questo? Ma io vado a guardare quello del Bayern prima. Va bene, d'accordo. Senta, adesso al posto di Renzi c'è Dario Nardella, ex vice sindaco di Renzi, toccherà lui quindi indotto questo progetto di stadio. Sì, sì, stanno già lavorando con i nostri, e se riusciamo a farlo è un progetto stadio, ma è un progetto con tanti servizi per la città, quindi, che secondo me può essere anche molto innovativo. Come la Juve, senza. Senta, lo conosce Nardella? La Juventina, immagino. Sì, è abbastanza. Senta, lo conosce Nardella? Lo conosco poco, lo conosce meglio mio fratello e le persone piace, che le lavorano. Parlano. Mi piace come persona, è giovane, ha una bella faccia, parla bene, mi sembra una persona Può essere bene. Un buon sindaco. Senta, ma tra Fiorentina e Juve c'è la stessa rivalità che c'è tra lei e Gionelcano? Perché la Juve è più forte. Ce n'è molta di più tra Fiorentina e Juve che tra me e Iachi. No? Insomma, perché la Juve è più forte. Questo sì, è ma Iachi adesso bisogna tirarlo fuori. Come dire, salviamo il soldato Iachi. Cioè, ha detto una stronzata gigantesca, però bisogna riconoscergli anche che ha detto poi che si è sbagliato. Adesso speriamo che non gli ricapiti di dirne altro, però teniamolo fuori dalla polemica. Ho capito che della forza della Juventus rispetto alla Fiorentina non vuol parlare. Che cos'ha la Juve che la Fiorentina non ha ancora? Allora, mettiamola così. Ma io direi il budget da spendere, che è molto più alto del nostro. Molto più alto? Beh, forse tre volte il nostro, quindi noi ci accontenteremo del doppio e saremo già uguali. E lo avrà il doppio? Dipende da come lavoreremo, se riusciamo a inventarci delle idee intorno non tanto allo stadio ma a quello che potremmo costruirgli intorno. Senta, ma quando è entrato nel calcio sembrava che lei volesse fare sfracelli, denunciare un'infinità di magagne, poi mi sembra che si è calmato, perché? Beh, guardi, nel calcio noi siamo entrati e abbiamo visto delle cose che non ci tornavano, tipo? Nel senso che tipo tutta la divisione dei diritti televisivi veniva fatta in un modo un po' casereccio e soprattutto gestito dai soliti noti. Bravo Gagliani. Gagliani è un grande dirigente di calcio e ci conosciamo da tanti anni e spesso non andiamo d'accordo, ma credo che ci siamo sempre rispettati. Gagliani sicuramente è un bravissimo dirigente di calcio. Senta, ma è corrotto? È talmente bravo che tenta sempre di farsi gli affari suoi. Senta, ma è corrotto o no il calcio, secondo lei? Il calcio, nel calcio c'è un po' di tutto. Sempre meno, per fortuna, perché noi abbiamo vissuto la questione Calciopoli con grande sofferenza, tra l'altro. Sempre meno, e ho l'impressione che cambiando ancora due o tre presidenti riusciamo a migliorare molto. Senta, lei è stato sempre contro nel mondo degli affari. Ma è una solitudine che gli è pesata, no? Ma io più che stare contro sono da imprenditore privato che campa di mercato, ad un certo punto pensavo che poter entrare in certi posti servisse a dare un contributo anche un po' sociale al paese. I posti erano Mediobanca, le grandi banche. Però non è che l'hanno accolto benissimo. Purtroppo c'è stato un matrimonio tra corpi estranei. E quindi io è vero che mi sono sempre preso delle posizioni rigide, ma l'argomento era sempre lo stesso. Senta. A, non prendo ordini, B, non faccio cose che non siano corrette per la società. Senta, ma qual è stato l'avversario più duro in questo match, nell'entrare in questi mondi? Questo è l'ambiente malmestoso. L'ambiente. Tutti più o meno autoreferenti. Guardi, ho trovato anche persone per bene. Ecco, me ne dica uno bravo che le è piaciuto. Ad oggi una persona che mi piace. Però non ha finito ancora, diciamo così, non ha finito il corso di laurea, è Nagel, perché ha fatto delle cose importanti, pur venendo da un ambiente che era la mamma di tutti, diciamo che era la mamma di tutti i problemi. Cuccia, certo. Senta, adesso comunque, ma Cuccia però ha fatto solo del male o ha fatto anche del bene in quell'Italia? Ma guardi, se la guardo dal mio punto di vista di imprenditore che vive di mercato, male. Cuccia, nessuno di noi sa praticamente chi è. Ho l'impressione che gli uffici stampa abbiano lavorato benissimo sull'immagine di Cuccia, ma alla vita reale delle imprese reali Cuccia non ha portato nulla. Senta, adesso comunque, a parte le valutazioni personali, abbiamo parlato anche troppo, al centro dello scontro con Elkan abbiamo detto c'è il destino dell'RCS. Quanto conta Bazzoli in questo scontro? Bazzoli contava molto in RCS, oggi conta molto poco, perché quando arriveremo tutti ad avere la sua età saremo tutti un po' più deboli. Oggi il problema di RCS è che non c'è un azionariato che decide e non c'è un consiglio di amministrazione che prende delle decisioni correndo dei rischi. Lei dice però imprenditoriali ed economici. Lei dice che se sparisse Bazzone in Italia andrebbe tutto meglio? No, intanto sparire è una brutta parola. No, ma sparire nel senso io credo che Bazzoli, che identifica una tipologia precisa di grandi... Vabbè, è un mondo che se ne deve andare. Ecco. Assolutamente, mi auguro che Renzi questo lo faccia subito, perché altrimenti avrà vita dura. Senta. Questo vale per Bazzoli, vale per i grandi burocrati, per quelli che chiamano i boiardoni di Stato. È un'operazione che va fatta tutta insieme rapidamente. A tutto campo. Senta, nella battaglia in RCS, lei però adesso non è più solo. Pesenti si è dimesso. Cairo è contro l'assetto attuale, sono alleati suoi? Guardi, io non ho alleati, anche se con qualcuna di queste persone abbiamo rapporti di stima e amicizia buoni. Credo che la gente normale prenda atto che quella è un'azienda che va tutta quanta rifondata. Senta, il direttore del Corriere de Bortoli ha detto che è molto difficile fare il giornale con azionisti che litigano così tanto. Ha ragione? Ma Ferruccio facesse il giornale che vuole, tirasse fuori il coraggio che serve e secondo me starebbe in pace con la sua coscienza. Quindi può farlo come vuole, lo rassicura, diciamo. Io più che rassicurarlo, si deve rassicurare da solo. Senta. Prende il coraggio per fare il giornale e vada tranquillo. All'origine della crisi dell'RCS c'è il fallimento dell'operazione spagnola. Di chi è la colpa? Due parole. Ma guardi, la colpa col senno di poi è di chi questa operazione l'ha proposta a un consiglio dicendo che era un'operazione. Ma, no, per capire. Bisognerebbe ricostruire chi erano gli advisor allora di questa operazione. No, non lo so io. Se non lo che so erano lei. Delle banche ad affari primarie, guarda caso, che hanno detto che era un'operazione utile, che andava fatta e che il prezzo era congruo. L'operazione è arrivata al consiglio, il management l'ha approvata e quindi è il consiglio che l'ha approvata. Ma lei era nel consiglio, certo, no? E l'ha approvata? Ma quando arriva sul tavolo un'operazione che è strutturata come se fosse... e viene definita perfetta, il consiglio di solito queste cose le guarda a pelo d'uccello e poi le approva. Senta, ma il palazzo storico del Corriere, insomma, va venduto? È vero che lei vuol fare un'azione di responsabilità per questo? Il palazzo storico non andava svenduto. È stato svenduto? Assolutamente sì. E farà quello, un'azione di responsabilità? Ma non su questo argomento. Su cosa? Su tre Quindi o quattro farà, cose... La stiamo valutando, non le posso rispondere ora, anche se io ho un'idea precisissima in merito. Senta, quindi il 5 aprile ci sarà lo scontro finale, redderazione? Per me non esiste un 5 aprile, per me esiste che questa azienda ha bisogno di cambiare in fretta e ho l'impressione che anche... Ma cambiare in fretta? Che significa? Avere un editore puro? Cambiare in fretta? Beh, intanto di editori puro nel Corriere ce n'è uno che si chiama Cairo. Cairo. Io sarei dell'avviso, se lui se la sente, di dargli la delega nel gestire l'azienda. Senta. E non capisco perché gli altri non lo facciano. E poi bisogna prendere atto che c'è un amministratore delegato assolutamente inadeguato. Senta, lei ha investito tanto anche in Italo, però non è andata bene. Che cosa non ha funzionato adesso? Italo, guardi, io in Italo non ho nessun merito. Se c'è Italo oggi bisogna ringraziare Montezemolo e gli altri che l'hanno pensata e l'hanno costruita benissimo. Ma quindi, Italo è un bello oggetto, secondo me, è un'operazione paese. Quello che vedo io, che non la gestisco, è che il problema di Italo, che si è ritrovato dall'altra parte le Ferrovie dello Stato, che sono state brave però. Guardi, sono state Moretti brave con il denaro degli italiani. Vabbè, però. Moretti secondo me non è male. Che è stato bravo col denaro degli italiani, non c'è dubbio, e che oggi l'alta velocità, quindi queste linee privilegiate, costino pochissimo e invece, voglio dire, costino quasi più care le linee periferiche, mi sembra una banalità. Senta, in Italo il suo socio era Montezemolo, l'ha detto, sembra sempre in procinto di scendere in politica, poi non lo fa mai, come mai? Luca, io lo sconsiglio sempre. Però devo dire che insomma, l'impegno civico che ci mette poteva anche non era un dovere, fatto che come imprenditore lo fa, secondo me gli va dato merito. Siamo in finale, in primavera ci saranno le nomine nei grandi gruppi di Stato e lì è un punto da dove si ricomincia. Renzi dovrà cambiare tutto? Beh, secondo me bisognerà cambiare molto, tenendo conto che in alcuni casi si cambieranno anche magari degli uomini capaci. Vede, oggi la parola d'ordine secondo me è discontinuità. Noi dobbiamo proprio fare in modo che questa grande palude di classe dirigente che ha ridotto il paese in queste condizioni, e non è solo la politica, cioè di tutto, compreso anche un mondo di una certa quindi impresa. Quindi anche Eni, Enel, Terna, io al dico, di là dei le meriti. Valutazioni vanno fatte e poi si cambierà. Io quello che credo è che bisognerà avere un sistema e non puntare il dito su chi sì o chi no, una regola corretta, giusta, che non offenda neanche le persone che sono state lavorato. Brave, sì. Discontinuità sicuro, burocrazia via. Annullata il più possibile. Senta, le faccio un'ultima domanda, dottor Della Valle. Lei nella sponsorizzare il restauro del Colosseo ha incontrato enormi difficoltà burocratiche, appunto quello di cui parliamo. Ecco, dà un consiglio di semplificazione subito per il ministro dei beni culturali Franceschini? Io direi intanto che si pacifichino gli animi interni tra chi pensa che sponsorizzare una cosa è peccato e chi invece, secondo me, intelligentemente pensa che serva, naturalmente con il rispetto. Ma dal punto di vista burocratico, che cosa burocratico bisogna semplificare? Bisognerebbe fare una bella lista di tutte le cose che hanno bisogno di essere sistemate, promuovere in Italia e nel mondo la raccolta di fondi per sistemarle prima possibile, con buona pace di chi pensa che ogni volta che un privato investe 5 lire è un peccato mortale. Mix 24. Non mi guardano più quegli occhioni tuoi blu, non mi ridono più quei dentoni tuoi blu. Pietrangelo, eccomi. Ma perché questa canzone stamattina? Potrei dire senza motivo. Ascolta. Vorrei gettarmi ai piedi tuoi nel mio soffrire, ma star vicino ai piedi tuoi si può morire. Potrei dire senza motivo, invece il motivo c'è. Sentiamolo. È urgente far sentire questi capolavori Aldo, Fabrizi, Lulù. È urgente per disintossicare le nostre orecchie dopo aver visto pure, quindi disintossicare pure gli occhi, i comici di regime. Quali? Ma l'hai visto quello lì a Sanremo, come si chiama, il comico che piace a tutti, che piace, ce ne sono un sacco. No, ma quello, so. Quello che proprio è il comico di regime, la voce del padrone, Crozza. No, è bravissimo. Ma dai, che bravissimo. Ma su. È lui il teorico del muro basso. Lui no, se la prende col muro. E sì, figurati, si è scatenato contro chi? Contro Giovanardi. Ma viva Giovanardi rispetto no, a lui. Ti prego. Vabbè, senti, sono le 9:38 minuti. Abbiamo sentito una grande, bella intervista qui su Mix 24 di Giovanni Minoli a Della Valle. Che titolo gli faresti? Non ridere. La Fiat degli eleganti imbecilli. Oh, e poi, beh, c'è detto. Anche l'altra notizione, l'ha no? detto. La settizzazione di via Solferino, Cairo alla guida con del Cairo Corriere. Alla guida. Invece io ho un titolo musicale, senti un po'. Sul topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Io sono la Fiat, la sempre la Fiat, la Topolino Amaranto, il grande Conte. Beh, e certo. Quindi mi piaceva ricordarla così, la storia di una grande impresa italiana. Preferisco. Senti. La Balilla, però ti vorrei chiedere, sì? Che cosa bolle in pentola? Oh, lo chiedi tu? Sì. Ma io sono veramente stupito. Vabbè, sentiamo un po'. Quota 176. E naturalmente, cari ascoltatori e caro Pietrangelo, non è un sommergibile, ma è il governo Renzi e il numero di voti che insegue per la fiducia al Senato. Alle 14 oggi, momento importantissimo, dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Nel frattempo, ahimè, registriamo cose un po' comiche, tragiche e anche surreali nelle cronache che affrontano l'arrivo dell'uomo nuovo, e c'è uomo, e insomma, come fu per Berlusconi, ripetiamo. Salviamo Renzi dai renziani, sei d'accordo sì o no? Anche perché quando fu di Berlusconi ci fu la necessità di salvare i berlusconiani dallo stesso Berlusconi. Vabbè, andiamo in Russia, va. Perché diavolo corre in Russia ogni 5 minuti? Sta acquistando delle proprietà lì? Adoro il posto, mi attira molto. È un tale casino. Ce la mettono tutta, nonostante i problemi. Quei poveracci vogliono essere solo come noi. La casa Russia è... era La Casa Russia, è un bellissimo film tratto da un grande romanzo di un enorme scrittore. E insomma, qua in Ucraina succede che quello che fu il granaio dell'Unione Sovietica, della Russia zarista e così via, improvvisamente passa nelle mani dell'Occidente. Si sono liberati di Putin, sì o no, secondo te, Pietrangelo? Io ho qualche dubbio, ce l'ho ancora. Tu? Non è impossibile liberarsi dal proprio destino. A proposito dei granai, tu pensa che cosa hanno fatto nei granai del Mediterraneo? Disastri continui. Sì, però io ho visto una fonte del Wall Street Journal anonima, però se riportata evidentemente è considerata autorevole e portatrice di verità, che diceva insomma, però per la Russia è una grandissima sconfitta e l'Occidente stavolta ha vinto. Non so, vuoi far sentire per esempio qualcosa di musicale su questo? Sentiamolo. Un Mefisto. Perché Mefisto? Perché io dico che i tedeschi sono in ritirata e tu invece? I tedeschi di solito non si ritirano, però c'è anche da dire che i tedeschi ormai sono... Che cosa sono? Non sono tedeschi. Sono europei. Tu pensa, ti ricordi che c'era una volta... Sono tedeschi. Il vecchio pontefice? Sì. Che, poveretto. Benedetto. In cuor suo suonava Wagner, per non spaventare le galline, dicevano, no, sta suonando Mozart. Beh, tu hai messo Mefisto, listo, va bene. Perché abbiamo fatto questo siparietto, diciamo così, sulla ritirata dei tedeschi? Perché la Fed ha approvato regole più severe per il business bancario estero in America e la Deutsche Bank ha deciso che non è il caso di restarci troppo e insomma progetta di portare via circa 100 miliardi di investimenti che verranno dirottati in Asia e in Europa. Vediamo se Forza sarà un bene. Eurasia. A proposito di Renzi e cose, senti qua alcune cose. Ormai ci ho messo 5 anni di scuole serali a prendere il diploma, l'ho preso a pieni voti e so di poter sfondare. Insomma, chiedi a uno dei miei capi ufficio, persino a Laz. È una donna in carriera, naturalmente anche questo è una grande citazione cinematografica. Perché? Perché sul Financial Times io stamattina ho letto un pezzo di Vanessa Friedman che dice che anche le sfilate sono cambiate con l'avvento di Renzi e la moda femminile ha cambiato il suo zeitgeist e c'è il potere alle donne. Mi sembra una fesseria, posso dire. Cioè, che cosa c'entra tutto questo con Renzi? Tu che ne pensi? Beh, io credo che ci sia sempre la possibilità, poi a maggior ragione queste fonti autorevoli, non ne posso più immaginare queste cose, per giunta col bollo americano, questi vivono... E quindi c'hai un salamino su questo? Arriva il salamino! Il salamino io lo costruirei proprio su questo, perché c'è sempre la necessità di discernere, di capire. E allora con l'avvento dell'era Renzi abbiamo assistito a che cosa? A questo profluvio di saliva intorno a Matteo Renzi. No. Tutti hanno fatto degli elogi, tutti lo hanno illustrato al meglio, lo hanno proprio lisciato come mai si possa immaginare. E questo per far sì che Pontassieve sia diventata una specie di predappio, per cui tutti vanno lì con le telecamere a inseguirlo perfino mentre prende la comunione, prende la comunione in mano, come fanno i piritolli, e non prescrive la dottrina. Questo non c'è disputazio, mentre sulla questione che viene inseguito ovunque, ahimè, dobbiamo ripetere che bisogna salvare Renzi dai renziani e anche dai renzisti. Scusami, uno punto. Che prende la comunione in mano è capacissimo di farsi la schitarrata sul sagrato. Guarda, sono capaci di tutti sono i mali. Sono dettagli questi, sono assolutamente dettagli. Canzoniere, moglie, no, cosa vuoi fare? Cosa no, vuoi fare? Dire. Sei l'unica al mondo, l'unica ragione per cui mettasse in fondo al mare per restare solo. Ritorno a casa dopo un giorno in giro con il mulo senza che tu mi dica niente. Come vedi l'estetica sensibile, l'estetica di che? L'umanitarismo di sinistra, no? Questo è fortunatamente Friscia ha voluto aggiustare quella che era la fissazione tutta giovanottiana di un'idea della e donna. Quindi? No, questo lo volevo dire perché poi sotto sotto è venuta fuori una cosa insopportabile, questo atteggiamento di certi giornali, di certo giornalismo, di massacrare, non potendo fare gli assoluti elogi al marito, vogliono massacrare questa signora che ha tutto il diritto di starsene per i fatti suoi, di non essere convocata. Sono d'accordo. Ma anche l'argomento dice: ma su Brunetta è stato detto tutto, che c'è? Brunetta fa politica, la signora. Sì, ma comunque signora Renzi, se no, è stato detto qualcosa di sbagliato su Brunetta, non è che la devi, diciamo, devi perseverare nell'errore. Sì, però no? C'è quella forma di giornalismo a metà tra goliardia e volgarità che è insopportabile. Siccome abbiamo fatto sentire la parodia, adesso che tutte le ragazze d'Italia si commuovono, si emozionano e quindi sono in un grande mare sentimentale per tramite di un cantante di cui non conosco una sola canzone, ma me ne dicono gran bene, e chi è? Alle ragazze dedichiamo Renga. Oh, piace un sacco la Tardelli. È un segreto tra di noi, tu ed io in questa stanza d'albergo a dirci che stiamo su. Ma posso e adesso, dire? E adesso il canzoniere, se no ve lo dimenticate. Brava. Sentiamo. Allora, un capolavoro della letteratura universale, io vado a leggere l'incipit del secondo capitolo. Al mattino presto del giorno 14 del mese primaverile di Nisan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere, nel porticato tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, entrò il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. Wow! Questo è l'incipit, il secondo capitolo di un grandissimo libro della letteratura universale, che è stato anche un grande film. No. Che è stato anche film, che ha dato portato in teatro. Portato in teatro, fumetti. Ed è una meraviglia. Beh. Ed è il libro che dedichiamo alle ragazze, che avrà più efficacia di Renda. Mi sembrava di Renda. Strano. E adesso i nostri ascoltatori lo devono indovinare chiamandoci all'800 24 0024 oppure con un messaggio 349 238 6666. Non vedevo l'ora di dirlo. Viabilità. Mix 24. Sai cos'era questo, Pietrangelo? È un'americanata, immagino. Gli ascoltatori di Mix 24 lo sanno benissimo. Questo era un grande film, Wall-E, e lo citiamo perché sai cosa dicono nella Silicon Valley? Dicono che entro il 2029 i robot saranno più intelligenti di te. Mamma mia, che cosa incredibile. C'è un vincitore per il canzoniere? C'è il vincitore che si chiama Cristiano, sì? E chiama da Bologna. Ce l'abbiamo in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è? Il maestro Margherita di Bulgakov. Bravissimo. E lei mi faccia intanto gli applausi. Ma mi dà la parola d'onore che non ha, come si suol dire, con quel gergo orrendo, googolato? No, non ho googolato. Il libro che ho letto qualche anno fa e mi impressionò come hanno rivisto la storia di Pilato e mi piacque molto, perciò provate a indovinare. Bravo. Allora, per lei un libro Feltrinelli e mi raccomando, regali Il maestro e Margherita alle donne. È meglio di Renga. Grazie a lei. Adesso, come sapete, Mario, Pietrangelo, ve lo ricordate, no? Che noi seguiamo Simone, quel ragazzo che da Torino si è trasferito a Melbourne più o meno 2 mesi fa. Potete seguire tra l'altro la sua avventura sul suo blog, Simone Super Trump. Ma intanto a noi ha raccontato questo. Allora Simone, come andiamo? Un mese e mezzo di Australia, come si sviluppa la tua permanenza? Si sta sviluppando abbastanza bene. Diciamo che ho 3 lavori adesso. 3 lavori? Che lavori sono? Sì. Sempre l'aiuto barman, che è quello il primo che ho trovato, e poi un caffè. E nel caffè cosa fai? Faccio sia lavapiatti che aiuto un po' in cucina. E poi in un altro caffè faccio lo chef, cioè vuol dire il cuoco unico. Ma scusa, ma è la tua giornata? Come fa? Quante ore al giorno lavori? Tante? No, perché sono venerdì e sabato sera l'aiuto barman. Sabato mattina a lavare i piatti e martedì la mattina a fare il cuoco. Ma guadagni un sacco di soldi oramai? Un sacco di soldi ancora no, ci arriverò. qua pagano bene. Quanto guadagni? Così incoraggiamo chi vuole venire in Australia. Solo il lavoro, quello dell'aiuto barista, quindi venerdì e sabato, due sere, che faccio approssimativamente 15 ore, guadagno sui $300. Ah, mica poco, eh? È buono. No, va bene, un bel posto. Quindi, insomma, più o meno arrivi a $2,000 al mese, anche di più. No, ancora no, però non è difficile arrivare a 2.000 al mese. E la casa quanto ti costa, me l'avevi detto? Ho avuto un colpo di fortuna e pago 150 quindi, a settimana. Quindi fai una bella vita, insomma hai già trovato la fidanzata praticamente. Eh? No, ancora no. Ancora niente fidanzata, intanto cosa ancora fai? Niente. Li fai mangiare piemontese nei tuoi ristoranti? Hai portato i piatti piemontesi? Purtroppo no. Però ci sono i peperoncini calabresi, perché il proprietario è di origine calabrese. Senti, ma questi italiani in Australia che hai incontrato, sono che tipi sono? Simpatici, ragazzi simpatici? Sì, sono tutti ragazzi che sono qui o per fare un'esperienza, o per guadagnare un po' di soldi, o per viaggiare. Sono tantissimi. A Melbourne, Simone, qual è il posto più bello, quello che ti è piaciuto di più? Qua è incredibile i parchi che ci sono. Sono ovunque, enormi, verdi, sempre ben curati. E i tuoi amici di Torino hanno un po' di invidia? Sul tuo blog ti seguono? Sì, penso di sì. Soprattutto l'invidia per il fatto che io sono in spiaggia. Vado a nuotare tutti i giorni al mare. Niente fidanzate e tanto nuoto, insomma. Esatto. Ci manteniamo in forma. Il papà e la mamma? Stanno bene. Stiamo convincendo mia nonna a usare il tablet con Skype. Ah, beh, la nonna con Skype è perfetta, allora. Già. Al prossimo appuntamento avrai un po' di notizie ancora più interessanti della tua permanenza lì. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao. Sono le 9.53 e professor Simonelli, tocca a me metterla sotto torchio. È in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buttafuoco ha già affilato i canini, eh? Sì. San benedica, professore! Senta, dov'era il canone ieri? Lo sentiamo anche questa volta con una musica. Ci ha preso gusto. Perché? Perché l'inno? Il canone era su Sky e su Cielo nel tardo pomeriggio per la cerimonia di chiusura dell'Olimpiade invernale. Per due motivi. Una, perché è stata una cerimonia bellissima che ha chiuso una Olimpiade bellissima. Onore alla Russia, che ha fatto anche una cerimonia, tra l'altro è un italiano che ha organizzato una cerimonia conclusiva. Molto colorata, bella, molto visiva, molto immaginosa. E con un grande merito di restare sempre un passo al di qua della retorica e del kitsch. Non si può proprio non sfiorare la retorica e il kitsch in una cerimonia, però l'importante è non caderci dentro con tutti i piedi. Professore, dobbiamo dire che i russi hanno organizzato una grande Olimpiade, una perché grande Olimpiade, sono andate bene. E gli americani, per rovinarli, per rovinare la festa, sono dovuti andare in Ucraina. Questo è il solito buttafuoco. No, ma è così. Prego, professore. Per merito a Sky e a Cielo, che ieri ha commentato, ha seguito anche dallo studio, con un piccolo colpo di genio, l'inserimento di Natasha Stefanenko. E perché è stato un colpo di genio? Perché ha ravvivato la cronaca di questa cerimonia con un sacco di aneddoti personali che la rendevano ancora molto più gustosa, molto più viva, raccontando di episodi della sua vita quando era in Russia, chiarendo bene chi erano questi personaggi a cui si alludeva, e quindi una presenza molto fresca ma anche di grande qualità informativa. Professore, ma oltre alle Olimpiadi lei ha visto qualcos'altro che merita il canone? Ieri sì, perché ieri è partito il programma di Bonito Oliva, che chiama Fuori Quadro. Sì, e ce ne siamo occupati qua. Su questo dovremmo ritornare con calma, perché mi sembra che abbia dato una sterzata forte nel discorso della divulgazione culturale della... Ottimo. Bene. Professore, dobbiamo chiudere, ritorneremo sull'argomento. Quella di oggi è una storia straordinaria ed è quella di Pasquale Rotondi, l'uomo che si fa custode dei più grandi capolavori dell'arte italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, come sempre a cura di Marina Milone.